America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Milano, Mario Platero. Abbiamo parlato ieri di politica americana, oggi voglio parlarvi di vicende italiane in America. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Tema Italia, come potete immaginare, avendo ascoltato quello che vi ho fatto sentire. Tema Italia perché? Parliamo di business. Come ricorderete, qualche tempo fa vi ho raccontato del New York Times che aveva fatto un lungo articolo su attività italiane che chiudevano a New York. Per esempio la RAI, per esempio l'ICE che ha messo in vendita il suo palazzo, la palazzina, e poi molte banche che chiudevano, che si riducevano, per esempio Banco di Roma, Unicredit si sono fusi in un'unica istituzione, così pure il San Paolo e Banca Intesa, e quindi dava conto questo articolo del fatto che l'Italia, anche in virtù della crisi, in qualche modo si stava stringendo su New York. E quindi vorrei tornare oggi in argomento perché, beh, proprio oggi, fra qualche ora, ci sarà l'inaugurazione, guarda caso, di una banca italiana che ha deciso di aprire il suo ufficio di rappresentanza qui a New York. Stiamo parlando della Banca Popolare di Vicenza. Ho con me ai microfoni di America 24 il presidente della Banca Popolare di Vicenza, che è qui a New York proprio per l'occasione, Gianni Zonin. Buongiorno Zonin. Buongiorno dottore. Beh, intanto lei in genere viene qua per il vino, ci siamo incontrati in passato avendo anche attività vinicola negli Stati Uniti, ma di questo magari ne parliamo dopo. Oggi viene in veste di banchiere, ci racconti perché? L'idea è quella di aiutare i nostri clienti, i nostri soci italiani a espandersi sui mercati esteri. Vicenza è nel cuore del nord-est dell'Italia, che è la macro-regione a più alta vocazione all'export, e quindi essendo sempre vicini alle nostre aziende, conoscendo i loro bisogni e sapendo quanto è importante oggi esportare per la nostra nazione, abbiamo cercato di aiutarli aprendo prima un ufficio di rappresentanza a Hong Kong qualche anno fa, poi a Shanghai, poi a Nuova Delhi, poi a San Paolo del Brasile e finalmente a New York, che noi consideriamo la capitale mondiale dell'economia. Ecco, e aprirete questa filiale, ho visto, al Fuller Building, quindi sulla 57 Madison, un palazzo abbastanza storico, quindi c'è ovviamente un messaggio immediato. Ma quindi voi servirete soprattutto, diciamo, i distretti industriali veneti? No, noi serviamo tutta Italia, il nostro istituto è presente con 700 sportelli in quasi tutto il territorio italiano, e quindi serviamo tutti i clienti delle varie regioni, ma soprattutto quelli che hanno una vocazione all'export. Ed è un caso molto particolare che la nostra sede, che è nel Fuller Building, che è stata costruita nel 1929, guarda caso, durante la grande crisi che ha colpito non solo gli Stati Uniti d'America, ma anche l'Europa. Stiamo vivendo anche in questo periodo momenti di difficoltà, ma noi abbiamo il coraggio di aprire i nostri uffici di rappresentanza per aiutare gli scambi non solo per gli Stati Uniti, ma anche dagli Stati Uniti per l'Italia. Io confido di interesse di molti fondi di investimento, di aziende italiane che vogliono aprire aziende negli Stati Uniti d'America, e noi siamo qui per aiutarli, accompagnarli, consigliarli e in ogni caso per sviluppare i volumi d'affari. Dottor Zonin, c'è un problema di tassi di interesse, questo lo sappiamo, ci sono delle aziende italiane che purtroppo nel momento in cui devono finanziarsi all'esportazione e vanno dalla banca, la banca gli chiede il 7%, l'8%, il 6%, il 5%, comunque insomma dei tassi che li mettono fuori mercato. Ecco, dico questo un preambolo perché c'è un po' di polemica, si dice ma come, le banche italiane riescono ad andare dalla Banca Centrale Europea a prendere dei soldi a dei tassi scontati all'1%, all'1,5%, poi però ecco che questo vantaggio non si trasferisce sul tessuto industriale. Voi lo state facendo, lo farete, e se no perché? Allora, primo, non è così facile, non è così scontato che uno va alla BCE e si apre la liquidità all'istituto. Secondo, la vicenda degli importi che siano in stretta correlazione col patrimonio di vigilanza dell'istituto, però ci vuole la garanzia dello Stato, che costa molto di più di quello che la BCE chiede come tasso. Quindi non è vero che si paga l'1%, andiamo dal 2,5% al 3% e quindi cambiano già le situazioni. Il problema della crisi di liquidità c'è, dovrebbe essere affrontato con più coraggio da parte della BCE e degli istituti delle banche centrali, perché è evidente che le banche per mestiere prestano denaro, ma per prestarlo devono andarselo a trovare. Le banche, quando vanno a cercare la liquidità, la devono pagare cifre importanti, ecco che siamo costretti a riversare i nostri costi sul cliente che ci chiede i prestiti. Con la concorrenza che c'è, col numero delle banche che c'è in Italia, con la pressione anche di banche straniere, voglio dire, c'è una concorrenza piena che non lascia spazio né a speculazioni né a interessi troppo elevati. Purtroppo siamo costretti a fare quello che ci passa il mercato. Io mi auguro che la fiducia che il Presidente Monti sta facendo ritornare nei confronti dell'Italia, di questo paese straordinario, con aziende soprattutto straordinarie, coraggiose, piene di inventiva, come sono tutti gli imprenditori italiani, io credo che in un tempo ragionevolmente breve ci riporteremo a tassi molto più equilibrati. Io stesso sono un imprenditore, oltre che essere presidente di una banca, vivo sui due fronti le varie problematiche e le assicuro che le banche italiane stanno facendo l'impossibile per aiutare le aziende e per aiutare i clienti. Lei è un imprenditore vinicolo, uno dei più importanti in Italia, e dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori che lei ha dei vigneti in Virginia. La Virginia legata anche ai padri fondatori, Thomas Jefferson, c'è la storia del legame con Mazzei. Ecco, ci racconti di queste sue attività in Virginia, soprattutto ci racconti di Thomas Jefferson, che credo abbia portato il vino in America dall'Italia. Ha portato anche delle famiglie di viticoltori, ha portato delle viti che ha piantato, ma purtroppo le malattie che ora non si conoscevano hanno distrutto questo vigneto. Noi 36 anni fa siamo venuti negli Stati Uniti, abbiamo acquistato questa proprietà di Balbus Vineyard vicino a Charlottesville in Virginia, abbiamo trovato un posto straordinario, un clima compatente a produrre vini di altissima qualità e abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, devo dire, e oggi Balbus è conosciuta non solo in tutta la Virginia, ma comincia a essere conosciuta in molti stati degli Stati Uniti d'America. È stata un'esperienza esaltante, tra l'altro la proprietà che noi abbiamo una casa che è stata disegnata da Thomas Jefferson per il suo amico James Balbus, che era a quei tempi governatore della Virginia. Quindi è tutta una storia che si intreccia fra il Palladio, fra Jefferson, tra la passione per la viticoltura, e quindi questa nostra azienda di Balbus in Virginia è non solo un vanto per la mia famiglia, ma direi che è un vanto per l'Italia, ma è anche un punto di riferimento per la viticoltura e per l'enologia di qualità nel nord-est degli Stati Uniti d'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la neomamma Beyoncé non perde tempo. Secondo le ultime indiscrezioni, la cantante sta già lavorando a due nuovi dischi da lanciare quest'anno, nel 2012, nei quali parlerà naturalmente dell'esperienza della maternità. Ma a noi piace ricordarla con Single Lady, i tempi lontani di Beyoncé. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.